c'è qualcuno? Chi c'è qua? Io ti vado bene. Chi c'è qua? Ci sono io. Sono io. Coccolino. Coccolino. Ciao già, ma sei solo? È qua. Stavo ascoltando il Ponte Cesar e c'avevo il volume basso, non mi ero accorto troppo di... ho visto lo smitter del segnale. Metto, allora c'è qualcuno. Chi altri c'è? Sono io acceso in questo momento. In questo momento. Non c'era nessuno e ho fatto chiamata. Venga. Oggi magari giornata di cielo brutto, la gente ha paura. Io pure li temo i fulmini. Anche se oggi non è... non sembra giornata da fulmini. Ha piovuto solo, vento, eccetera. Mamma mia che stanco, tutta la di facendo roba. Analisi, commissioni, banca, pagando bollette, farmacie, tutto, tutto in un giorno. Sono abbastanza stanco. Idem, idem, idem. Io stamattina mi sono pulito tutte le gabbie. Ho aiutato un po' Manuela a lavare i piatti, a fare tutto quanto, perché sennò se no non ce la fa. Poi ho fatto fare la spesa ai miei due amici d'oro. Mi hanno fatto la spesa e me l'hanno portata a casa, l'ho sistemata. Adesso almeno c'ho qualche cosa. Buonasera, un lupo grigio, avanti. Santiago 9, segnale buono, Gianni, come arriva da te? Ho detto, non vai in Viale Trieste, lupo grigio. E tanto qua l'avresti abbandonato, sai quanti ombrelli c'erano in giro? Mi ha detto un amico che ce n'erano centinaia buttati in terra perché aprivano l'ombrello per la pioggia, poi arrivavano le falde di vento e le rompevano. Io passo. Sai cosa è difficile dirlo, magari operando con antennini, dopo il segnale varia continuamente, magari qualcosina riesce a guadagnare, soprattutto i portatili, no? Che magari meno volte li dai meno watt danno, abbastanza significativo. Adesso vediamo se entra qualcuno, io magari mi mangio la frutta. Una banana, un budino, poi forse c'è anche il caffè. Ah, sono stanco morto, poi il cuore mio, mamma mia, certe volte proprio tutto l'affaticamento lo sento a livello cardiaco, me. Muscolare, no, tanto il cuore è un muscolo, anche se involontario. E dovresti metterti nel divano sdraiato, così ti rilasci un po', lasci smaltire un po' questa, perché anche a me lo fa, quando poi faccio troppa roba, a parte che mi si è gonfiato il piede adesso, quando faccio io non posso vedere, la casa è in disordine, sono fatto così, quindi sto sempre facendo, e mi figli mi sgridano, vai lo facciamo noi, vai lascia perdere, ma a me piace come lo faccio io, capito? Marco, ci vuole il mio duro. Ehi, Alù. Esatto, una supposta di mio duro, quello cura tutti i mali. Ciao Lu, ben sentito. Eia, dai, riprendete che mi mangiucchio queste due cosette. Poi sai cos'è già, io non sono abituato anche molto a muovermi, a fare, già lo sai, no? Il morbo di Mandrox. E quindi quando un po' la giornata è piena mi stanco abbastanza. Dai, riprendi, fai girare che io mangio sta roba. Come sei così basso, Marco? Io? Aspetta, controllo. Qua è tutto normale. Credo, Gianni, tutto normale. Guarda un po'. Sì, da me sì, Marco. Da me, Santiago 3. Vedrava di più forte. Non lo so, io come ti arrivo, sempre lo stesso, Marco. Ah, poco di meno, Santiago 8 modulato Santiago 8, se no è 7,5. Comunque la modulazione di quella stazione è un bijou, lo sai, anche l'altro giorno che ha parlato Marina era un bijou la modulazione. Quello ha parlato di tenertelo caro, mi Luca. Ehi, se non vuoi capire più nel microfono, ho avuto il microfono. Pure, ma c'è in tre. Sì, ecco, ti sento abbastanza bene, non è che non ti sento, dai, radio 4, segnale 3, non lo so, forse male dipende dalla mia 3 che è sbagliata, già che c'è proprio lo stesso di segnale. Anche io mi aspetto che sta entrando a farmi una doccia, anche ogni tanto mi lavo pure io. Ho Oh Luca, ma sei leggermente raffreddato, sento la voce un po' nasale. No, beh, c'ho la laringe chiusa al buio. Io vabbè, io lo stesso, però i turbinati sono deviati, capito? Sono deviato. Vai Gianni. Ehi, vabbè, dai, dai. Luca sta a farsi la doccia, lo saluto. Niente, io sono qua. Non so con chi parlare adesso. C'è Lupo Grigio che parla, Lupo Grigio. Ho tanti nomini, ma non forte. Non è come quando vai via le Trieste. No, il segnale è lo stesso, Santiago 9 è come da via le Trieste, arrivi a me per me. No, Luca è andato a farsi la luce, ma la luce a Marco è andato a mangiare, a pranzare, quindi siamo rimasti soli. Io sono sempre qua, se vuoi rimanere rimane, se no sono qua io. Addirittura, ma era aperto. È già tanto, Ma la finestra è ancora buona, si può rimettere? Basta cambiarle del tutto le cenere, cosa ci vuole? Le cambiate, le mettete quelle che fanno adesso e basta. Da Palmieri bisogna andare, lui c'ha tutta questa roba. Palmieri, ridilo. Probabilmente ha trovato lo sfogo, il vetro per farla aprire. O era chiusa male o era aperta. Ma con una giornata come oggi dovevano capirlo di non lasciarle aperte. Sono proprio menteccate se fanno una cosa del genere. Lo so, purtroppo fanno sacrifici anche loro. E poi passano tutti e sporcano di nuovo. Invece se le fanno di mattina presto, come la fanno anche da noi, verso le 5 e mezza, lì sì, proprio andando male. Ma infatti, se non usate le scale, oramai siamo diventati pigri. Io sono nato pigro. Pigro. C'era una canzone, te la ricordi? Cappa. Marco, è così. Adesso abbiamo tutto telecomando per il televisore, ascensore per invece fare le scale. Siamo molto, non ne facciamo più. Sì, io ho mai fatto poi. Io mi ricordo quando avevo con la moto la Honda, per andare all'edicola che è 100 metri qua su, pigliavo la moto, il colmo dei colmi. E ho detto, ma si fa prima, piglio la moto, tanto è sotto casa. E invece è molto male. Oh, mi è venuto un attimo fuori un extracistolo di quelle da togliere il fiato. Mamma di turchi. Poi già ero stanco, più a stomaco pieno me lo fa ancora di più. Cuore nervoso, molto nervoso. Ballerino. Vado al veterinario. Tanto amici, alla fine. La seconda del medico che trovi è come il veterinario. Magari, e quindi non sono un veterinario, sono solo a tutti. Se non ascolto da tanto, però non continuo a rimanere in ascolto perché sto facendo tanta cosa. Ciao Gianfra. Ciao Gianni, ciao anche a Nicola, che però sento proprio un pilino solo, sento che parla ma non capisco cosa dice. Sono morto, tantissimo. Allora siamo in tre stanchi, Nicola non lo so se è stanco, Nico, ho detto anche tu stanco, sì, siamo già in tre stanchi. Marco, non so se te l'ha mai fatto, a me il muscolo mi sta andando da solo, praticamente mi palpita, si forma il muscolo e poi si abbassa, da solo. Senza stringere il braccio. Allora, quello me l'ha fatto alla coscia, no? Poco sopra il ginocchio. A seconda del letto della posizione faceva proprio il pozzo e poi si distendeva. Non lo so, forse quando si stressa un po' il muscolo. Tipo quando, hai visto quando ti attacchi col macchinario per farti la muscolatura, che ti dà le scosse lì, e così fa. Avanti. E adesso sono tanti nomi, dove? Sì, ricevi Marco. Sì, come quelle macchinette, gli elettrostimolatori per i culturisti, così, no? Sì, un po' l'ha fatto, ho detto, ma com'è questa cosa? Poi cambiavo posizione, non lo facevo, mi rimettevo in quella posizione, vedevo che si contraeva e poi si distendeva. È un po' così, beh, era giornata però che mi ero stancato molto di i muscoli delle gambe. Cioè quando ti alzi, ti abbassi, ti inchini, ti ranichi, ti vabbè, già hai capito. No, negativo, colesterolo a posto per ora. Ah, aspetta, sì sì, me ne aveva parlato Natalino di questo fatto, che può dar fastidio ai muscoli a lungo andare. A proposito, Natalino, sei all'ascolto? Negativo. Sì, anche mamma usa una statina, rosuvastatina. Sono nomi difficili da pronunciare anche. E beh, è qua perché si è fermato. Scusate un attimo. Ehi, oh, una volta... Chi è? La Radio FM. No, ti dicevo già, porca miseria. Non riesco a finire una frase, preoccupante. Non riesci a... probabilmente sei stanco. No, diciamo che mi sto distraendo con altre cose. Vabbè, ho preso il filo, dai. Porca miseria. No, avevo chiesto a Natalino a vedere se era all'ascolto, invece non è, forse non è entrato. Ah, sai perché? Gli era mancata la luce, perché nel quartiere dovevano sostituire un fusibile, mi pare, nella centralina elettrica, no? Come si chiama? Le cabine elettriche. Vabbè. Io già mi sono stressato un bel oggi. Infatti c'ho il piede gonfio, Marco. Cioè, come ti sei mosso te l'ha fatto? Ascolta, una curiosità, Gianni, ma tu quando sei tornato a casa hai trovato in ordine oppure... Prova a immaginarti, c'era Marco solo, Marco doveva alzarsi alle 6 di mattina, portare il cane, andare a scuola, usciva di scuola l'unico quanto farsi il pranzo, cosa poteva fare ordine? Un macello, Mamma mia, alle 6 di mattina per il cane, per me sarebbe un incubo. Lo è anche per lui, ma lo fa pesare. Io tutti i giorni alle 6 di mattina, adesso che c'è Manuela, lo porta lì alle 9. No, vabbè che spesso e volentieri alle 6 di mattina sono ancora sveglio. Cioè io potrei portare il cane alle 6 circa e poi andarmene a dormire. Ma anche io non dormo un cavolo, dolorio questo. Guarda, non sto prendendo il coso, l'antidolorifico per irritare, perché c'è un po' di bruciore allo stomaco e non voglio che mi rovini lo stomaco. Ma tu non usi il gastroprotettore o sei allergico tipo? Certo che lo uso, Marco, ma lo prendo anche a stomaco pieno. Ehi, per esempio mio zio era allergico, gli aveva fatto una reazione, un gastroprotettore chiamato, è diverso dal mio, cambia un po' il nome, e aveva cominciato a diventare rosso, a chiazze, mia zia gli ha fatto subito il cortigione. Credo cortisone, sì, per contrastare la reazione allergica. Non ne ha più usato. La metilina, cimetilina. L'anoprazolo. Ah, ecco, credo che lui gli abbia fatto male il l'anoprazolo. Invece io usavo, non ne uso nemmeno. C'ho lo stomaco da struzzo. Potrei prendere l'aspirina anche a stomaco vuoto. E anche con la Coca-Cola assieme. E io usavo l'omeprazolo. E tutti i prazzoli sono. Avanti, Gianfranco. No, il prazzolo è un po' più potente, quello più leggero è il pampa prazzolo, che rimane più leggero, più tranquillo. Quello che facciamo male è cimettina, radicchimina, se ne fa così dopo, dopo io non ho sempre tutto, non ha fai neanche scendere. E comunque queste cose brutte, E i medicinali, cioè, ti curano una cosa, te ne compromettono altre 10. Infatti i bugiardini comunque non vanno letti, perché chi è impressionabile poi se li trova tutti i malanni, i difetti collaterali, capito? Io me li leggo e infatti non le prendo. Sì, o quantomeno controllare le controindicazioni, cioè interazioni con altri farmaci, quello sì, però il settore effetti collaterali non va a letto. Invece se uno si trova un effetto, allora va a leggere dopo, se c'è un riscontro allora cambia farmaco oppure lo interrompe, insomma. Vabbè. Quale, prima serie o seconda serie, quando era più vecchio? Aspetta, per fare... sembra facile, Mamma mia, te le immagini. Oh, vabbè che certe cose da scoprire sono anche... come fai? Se non ci sono testimonianze, telecamere, cose, ci vogliamo anche pensare. Chissà anche per Amanda Knox che stava festeggiando il matrimonio, qual è la verità? Ovviamente ci è passato, mi pare, in nero, come sempre. E lei, bella giovane ragazza bianca americana, è tornata a casa e ci è passato il nero. Vai Gianni. Chissà che trunici sono lì, solo loro lo sanno cosa hanno fatto. Eia, Luca, tu sei più forte di segnale, se sei tu. Duro, sì. Anche tu sei salita a 5 adesso. Gianni, da te ha cambiato? Io sono cambiato da te, vedi un po'. E Luca mi è salito di segnale, è impennato. Tu sei sempre lo stesso. Luca non l'ho guardato poco fa, non lo sto guardando la cabeza, dai. Oh, c'ho dolori, Marco, c'ho tutti i muscoli dolenziti, c'ho il muscolo che mi aiutava a sollevarmi, quello diciamo che non era stato toccato. Adesso mi viene il crampo, cazzo, quando vado, perché ho fatto lo strappo, non sono andato alla porta, stavo andando ad aprire, ho fatto lo strappo alzandomi, cazzo, adesso non serve più manco l'altro. Oh già, stavolta sono andato alla dentalica, lo richiamo dopo 10 anni, se riparlo il nome del nofono, me l'ha fatta nel braccio sinistro, adesso che mi fa male. Un bel male il braccio, proprio solo posso levarlo, un dolore allucinante. Io ce l'ho per 10 anni, ne sono passati 5 solo per questo. Io l'ho fatta nel 2009, l'ho fatta adesso. Cosa fai? Un richiamo solo dopo 10 anni. Insomma, abbiamo fatto delle domande per quanto riguarda le altre, il morbillo, varicella, queste cose. Devo andare al medico, portare il tesserino che mi hanno scritto roba sopra e vedere un po'. Comunque devo fare dopo l'esame del sangue e poi portarli da loro. Aia, vabbè. Che hai trovato colesterolo, roba alta, così. Oh, se no vuoi fare gli altri vaccini, anche non c'è niente il colesterolo. No, non sono a posto, mi... Grazie a Dio, per il momento sono a posto. Io vedo così, lui. Ah, no, io c'ho il ferro basso, Ma è quello lì come mi hanno operato, là. Potresti integrarlo anche con quel ferro in fialo, in fiale, tipo ferro fortin o roba del genere. Diciamo che me lo davano all'ospedale, poi non me l'hanno più assegnato. Mi facevano 2 prelievi al giorno per vedere, per controllarlo, no? E poi non me ne hanno più fatto, vuol dire che è a posto, adesso dovrebbe essere a posto. E poi sai, con i prelievi? Con i prelievi frequenti che fanno lì ti avranno anche mezzo di sanguato. No. E da noi lo stesso, ci svegliavano la notte, ogni tanto ti misuravano tutti i parametri vitali, oppure un prelievo, oppure mi davano il cortisone. Perché non potevi dormire la notte in ospedale, ogni tanto arriva qualcuno e poi sai, quando fanno quel tipo di casino, quando fanno quel tipo di operazioni che ho fatto io, vogliono vedere anche se sei vigile, capito? Che uno, sai, sono zone delicate. Anche a me così, mi svegliavo la notte per misurarmi glicemia, la temperatura e la pressione. Io chiedevo sempre com'era la saturazione d'ossigeno. In sala operatoria non si sa mai come va a finire, no? Magari l'anestesista era distratto, magari anziché ossigeno ti dà azoto, no? Comunque, vabbè, buono. Vabbè. Oh, questa stanchezza mia era preesistente, non c'entra nulla con l'operazione. L'operazione è stata, se vogliamo, una passeggiata. Niente dolore, niente di niente, solo che stare in ospedale è una galera. Per quanto fosse tranquillo, c'è tante attenzioni, ma sei sempre fuori casa, sei con estranei. Quando ci sei stato, Marco? Ma una settimana solo. Credo che al settimo giorno mi abbiano dimesso. E di cosa ti lamenti? Sono goduti di Dio. Quello che ci avevamo messo era due mesi. Lo stavano mandando a casa. A casa. Si fanno l'altra che hanno trovato un'altra frattura. L'ho dovuto rioperare per metterle a posto anche l'altra di frattura. Ne aveva già una. No, ne hanno trovato un'altra. Ah, quello che c'era a fianco. Io. Pensa che mio zio... che vabbè erano altri tempi, non c'erano forse manco le cure. Quando aveva 16 anni, mio zio, quello ceporosso, no? Gli hai capito? Ha avuto la coccite tubercolare che gli ha rosicchiato la testa la testa tua dove hai fatto la protesi, gli ha rosicchiato proprio l'osso e adesso la gamba la deve tenere dritta. Non c'erano cure per quella roba lì, non c'erano protesi, una cosa allucinante, infatti dolori, coso. E lui ha detto, sì, mi sarei aspettato qualche problemino alla gamba, ma non a questi livelli. E non è operabile perché lì non c'è più niente da sostituire, è tutto magnato, compresa credo non solo la testa dell'osso, ma la sede dove entra la testa tonda dell'osso, già hai visto l'operazione, no? La protesi, cioè quella sfera, lo snodo della gamba, già hai capito? Ho capito, si è mangiato, ha toccato osso con osso e si è mangiato anche parte del bacino. La sede dell'osso lì, e si chiama coccite tubercolare, roba che adesso non esiste neanche più. È stato 6 mesi ricoverato in ospedale, 6 mesi di... Mamma mia, per carità, poveraccio. Incazzato che si riuscirà a avere, incazzato a morte. Dice, cazzo, ma ne stavo andando, dico, no, lì non può muoversi più, dovevamo rimetterlo oggi, ma abbiamo scoperto che ha un'altra frattura. Quella è una loro, diciamo, è un loro sbaglio, perché dalle date se dovevano accorgere. Ehi, a me pare di aver sentito in Natalino. Beh, buonanotte a tutti, adesso è tornata la dicemi Marco. Ehi, infatti ti abbiamo chiamato prima, ha detto, me l'aspettavo, ha detto provarci che la luce non sia tornata ancora. Mi è sparito, Nicola mi è sparito, Nicola, mi copi? Era un bel po' mi senza luce. Da quando, Marco lì, quanto sarà adesso? Più di un'ora era. Perché? È Natalino, eh? Vuoi parlare con un mulo? 2, 4, 3, 6, 4. Vai, abusivo. Davvero? Uomo, nega. È Natalino. Papà, se ti fate la mia mancanza, eh? Comunque, ciao a tutti, ben sentito. Io ti faccio caro. Vai, con cuomare. Abusivo. Come parlai con un mulo, eh? Ti lo fa squillare un telefono tutta la notte? Abbiamo parlato in due. Parla adesso, parla con muro. Nicola, ti sei abbassato tantissimo. Sei quasi sparito. Ecco, adesso è salito il segnale. Salito. Sai che avrei voluto provare già? Quel Maxcom con le batterie. Servono 10 stilo da 1 e 2, dovrei avercele pure. Si tratta di caricarle tutte e provarlo da zone aperte tipo San Francesco, vedere come rende. Provo! Chi è Eugenio? Buonasera! Ciao Eugenio! Davvero sei già? Cazzo, ho visto quel cantante Luca, ci ho visto con cagato sotto le risate. Due volte l'ho fatto cantare già, no una. Ah, il miss che sono, tutta certa. E mi ha convinto che cantava così. Eia, penso che è bravo. Allora, praticamente lui ha corrida, ha detto che meritava il primo posto. Anche Graziano l'ha preso in giro, quello di TDG. Allora, sì. Graziano Mura, l'amico al Sacro Cuore, ha tanto tempo. Ehi, già è lui. Bisognerebbe portare Paoletto a cantare. questo era più stonato di Poletto, ma la grande Barone ti faceva pisciare dalle risate. Anziano era a scuola con me. La Ciaura? Ciaura. Oh, non lo sapevo, adesso vabbè, fa giornalista televisivo. Lo so, l'ho trovato vicino da Vasco l'altro giorno, era Crusombrini e una cagnolina aveva, mi sa. E ci conosciamo tantissimo tempo, era ancora con me, purtroppo. Ciao Nicola, dai, le prossime, i migliori giornate anche, dai, così puoi uscire all'esterno. Ciao, Gianni, vai per i saluti. Ciao Nicola, buona serata, buon QRT, dai, ci sentiamo. Avanti, Natalino. Ciao Nicola, buon QRT, alle prossime. Avanti a chi tocca, a Marco Conno, o Conno? Marco Conno. A Gianfranco toccherebbe adesso, dai. O forse sta facendo roba. Gianfranco è impegnato. Poi esce male qua, dai. Se lo sento tutto strano, sembra dentro una botte. Con tutta questo vuoto di camera, l'effetto stanza, un po' lo fa. No, a te non te lo fa. Ma io sto usando un microfono normale, 500 ohm da palmo, se metto quello da tavolo e alzo un pochino il volume, senti anche quando tiriamo la cassetta del gabinetto lì. Natalia. Sì, quando mi viene male a modulare con questo microfono che luce, che è il microfono riluttante. Natalia, lo conosci a Marco di Roccolo, vuoi con cuore? Sì. Natalia. Lo conosci a quel buon comare il Marcolino? Ma vabbè, buon comare, abusivo. Io ho letto era un eremita, viveva in una pinnetta con le candele. Raccoglieva la roba da mangiare che dava la natura, poi mi ha detto che i cinghiali passavano la mattina salutando, gli facevano lui ci va fuori, diceva tranquilli, andate che ci sono io solo. Prendevano e se ne andavano, cazzo, dice che parlava con gli animali. Ma chi io? No, quello che c'era vicino di Vettumino, all'ospedale. Dice che ha piantato la marijuana per uso personale, poi è arrivato un amico, me lo vedi un po', si è sparsa la voce e si è fatto un anno di galera. Ah, ecco perché quando ho fatto quella battutina dell'ospedale ho detto, per togliermi la flebo, come si chiama quella presa multipla? Con l'ago e il braccialetto riconoscimento, quando ho detto superiore ma gli toglie il braccialetto, ho visto un'occhiatina, era interessata al discorso, ora capisco. Era un po' strano, ha avuto anche un ictus, poveraccio, era strano, la notte si metteva a dire me la pagherai, tanto perderai il tuo potere, lo riacquisterò io, non so quando, ma me la pagherai, bastardo. E ho detto, un giorno ho detto, ma anche con chi ce l'hai? C'è il mago che mi ha fatto tutte queste cose, c'è un mago che non mi può vedere. Il mago Calbusera. Ah, lei dice pure. La notte bestemmiava contro questo mago che diceva lui. Poi a tutti raccontava questa sera, potete anche non crederci, però c'è un mago che a me mi fa del male. Adesso per dire, il dottore mi ha fatto male, ma non è il dottore che mi ha fatto male, è lui. La pagherà. Mamma mia, e come fai a dormire con un elemento del genere? Magari viene qualche raptus, ti taglia la gola mentre dormi lì. Allora lui aveva un braccio solo. Beh, il dottore gli ha fatto male alla gamba, gli ha dato una parata di piedi, dici dove accadesce il dottore. E ha detto basta, non lo visito più, fateli una lastra, peggio più lui si prende le radiazioni. Fateli una lastra e vediamo su come sta procedendo la storia. Secondo come va lo mandiamo via, lo mandiamo la sua pinetta. E lui, io sono contento di quello. Oi, oi. Bene, bene. Sì, sì, ok, riprendete. Ah, c'era Eugenio pure, Eugenio. Attenzione Eugenio, ci sei, Gabi. Eugenio deve aver chiuso. Ok, che tocca, lanciali, riprendi. Togli quell'eco con questo coso di superiorità che c'hai. Io lo faccio per far parlare gli altri, cambio. Quando mi ricordo chi è che l'aveva raccontato che questo era già verde, un giorno c'era, stavamo mangiando i topi in quel posto dove abitavo. Allora cosa c'è? Io sono andato una volta a casa sua, c'avevo una batteria di macchina, c'era manco luce, sotto la batteria pieno zeppo di pezzi da 100.000, ma non c'era una mazzurata che la via, c'avevo un po' di soldi, e c'aveva un dipolo dentro casa, e al dipolo stendeva la biancheria, poi c'era la lambretta con la rosa verde davanti dove c'è il coso del clacson, e il Catalina 2 attaccato alla batteria. Magari qualcuno gli avrà fatto il favore di ricaricarli ogni tanto, magari un elettrauto. Non lo so come faceva, so che si era attaccato alla luce di un altro vicino e l'avevano sgamato e l'avevano denunciato. E quindi il dipolo era interno proprio all'appartamento, vabbè, già ci ho capito. Era il bugigattolo, sì, era interno. Era steso praticamente tra una parete e l'altra. Poi gli stendeva anche la roba sul dipolo. E magari trasmetteva pure con la roba stesa bagnata. Posso, Poi diceva, sono sempre con la bionda, io tra me dicevo, cazzo ma, questo quanto rimorchia. E poi un giorno mi ha detto, no, la bionda intende dire la birra. Una bionda Peroni. Io sono vicino alla mia bionda. Vorresti quella rosa verde, gatta. Ma lui scantonava in radio, cioè pigliava parolaccia a qualcuno oppure si limitava? No, normalmente no. Su Bastore era quello che diceva le parolacce. Su Bastore era uno che stavano cercando in video per sfasciare la faccia e non lo trovavano mai. Su Bastore? Oh, mai sentito, ma stiamo parlando sempre anni 80 o... Io sono entrato, va bene, nell'84 era contemporaneo o prima ancora, perché io quando sono entrato io rosa verde non c'era più, non ho mai sentito questo rosa verde. No, era prima. Allora c'era anche Don Diego che diceva parolacce, che sarebbe quello che viveva col gobetto di Sassari, quello che diceva che se non fosse stato per il suo piccolissimo difetto sarebbe stato il più bello di Sassari, che lui era ghi. Sì, me lo ricordo, l'amichetto suo, in baffi era, no? L'amichetto di Don Diego. No, Don Diego era lui, era quello in baffi. Tanto. E descriveva che stava guardando un film porno, diceva quello che stavano facendo, tutto qua. E c'aveva uno shooter, mi pare, che usciva un bel forte. A trovarli quelli shooter di una volta. Quello col potenziometro rosso, mi pare il potenziometro era rosso, non il PTT. Aveva una chiarezza straordinaria, l'avevo sentito da Mario Nottari. È proprio effetto presenza, naturalmente il baracchino deve già uscire bene di suo, no? Era straordinario quel micro, certo non amplificava tantissimo, ma teneva una chiarezza, una limpidezza allucinante. No. Non li fanno più, peccato, anche con lo sciure da palmo, l'MP2B che usava Vittorio sul Fiorino. Era bello quel microfono, poi era modificato, usciva particolarmente bene e forte. Ce l'avevo sulla Game 5 in macchina, io, l'MP2, cioè il Summer 2. anche io ce l'avevo a casa, tale più 2U, quinto è Giambo Aristocrat 600 watt. Leggendario Giambo Aristocrat, eh? Poi cosa c'era all'epoca? Mi pare il Galaxy 1000 della CTE, può essere, mi ricordo un barrasone. Ehi, sì, e ce n'erano vari, allora, ce n'erano anche molti ancora autocostruiti. Ma tipo kit da assemblare? Cazzo, tu a Natale non parlate sempre insieme, non comprendo nulla di chi che dite, niente, né uno né l'altro passa. È che c'è il tipo veloce quello, quella busivoga. No, dicevo, ma tipo scatola di montaggio, ho costruito proprio di proprio pugno, compreso lo stampato. C'era che lo costruivano a zero, c'erano tutti i pezzi in vendita e lo assemblavano, capito? Lo stesso, apparecchi da assemblare tipo amatoriali, no? Adesso non credo nemmeno che nessuno ne venda più roba da assemblare, vero? Ogni tanto i cinesi vendono questi QRP HF, no? Che vabbè, sono tutti ormai, cosa vuoi assemblare? La scheda è un pezzo unico. Sì, devi piazzarlo, mettere il case, metterli fesserie, mi ricordo questi QRP, qualcuno, cioè te lo davano sia montato sia da montare, ma manco per la fatica, la rogna era da ordinare già montato. Sono piccoli apparecchi QRP tipo Ciegu, scritto così, Ciegu, Ciegu sarà, boh, come si pronuncia? Comunque, allora c'erano le battaglie, per quello tutti quanti compravano lineari grossi, ui, hanno bucato antenne, di tutti i più. Qualcuno ha sbagliato, le CSI in AM, in FM, ha fatto un yahoo con le antenne. Questo Dio Giovine lo stesso, la crepata. Tramanto va uno. Perché facevano le gare per arrivare a Badesi, arrivare in posti lontani, capito? La notte specialmente. Tu pensa a Marco che stavo, sì, dalle 7 di mattina c'era sempre gente, tutta la notte, sveglio. Mamma entrava 2 o 3 volte in camera, spegni quella radio che è tardi adesso, sì, la spegnevo e poi la riaccendevo. Come ti si dormiva, la riaccendevo, loro stavano oltre le 7, perché alle 7 spegnevo, non ce la facevo più. Loro stavano ancora lì, tipo sabato e domenica. Eia, ma voi che l'avete conosciuta, la Firenze 2, io mi ricordo negli anni 80 avevo sentito un'accesa discussione tra due CB, no, di Sassari, e uno sosteneva che la Firenze 2 era mezz'onda e uno che era 5 ottavi, ma per caso era un po' più corta della Mantova, poteva essere una 5 ottavi un po' raccorciata come può essere quella che abbiamo io a Natalino. E questi due dicono, no, non è così, uno diceva 5 ottavi e uno mezz'onda. Ovviamente quello che ce l'aveva diceva che era 5 ottavi, l'altro che non ce l'aveva diceva che era mezz'onda. Ma lì ce l'aveva la torre si offende ed era mezz'onda, non era 5 ottavi. Ah, mezz'onda, ma era mezz'onda con radiali. Io mi ricordo che nelle foto compariva con i radiali, può essere, o sto prendendo un abbaglio io. Ma ce li aveva i radialini, però era mezz'onda. Era 5,50. Vabbè. Poi, no, sai perché la Vega 27 della Eco, Vega con la V doppia, no? Era sempre 5 ottavi, però era particolarmente corta, mi pare fosse 5,50 o 5,70, però elettricamente erano 5 ottavi, cioè aveva meno stilo e più bobina, ed era telescopica, cioè la chiudevi proprio come uno stilo telescopico, e quindi era bella per installazioni temporanee e roba del genere, capito? Alzavi, mi pare stringevi delle ghiere o fascette, però credo fossero ghiere, e la utilizzavi. E anche quella aveva 4 radiali, K. E anche la Firenze 2 c'aveva le ghiere. Sì, naturalmente poi non so quale sia il sistema migliore a lungo termine. Per esempio nella nostra, ho già, quella che abbiamo io e Natalino, e gli stili si fermano tramite due viti che... una o due viti per ogni elemento, non mi ricordo adesso. fascette non ce n'erano, vero Natalì? Che io ricordi era solo con Vitti. Ma perché potrebbe essere un po' deboluccio, non mi ricordo bene Natalì. Così è, due Vitti per ogni elemento, ma io l'aggiungo tutta vulcanizzata e in un altro l'aggiungo, quindi non penso che si muova. Se si muove che puoi murinare i Vitti. Eia, sì, perché poi le Vitti passavano solo una parete dello stilo, cioè non passavano da una parte all'altra attraversando l'intero stilo. Sì, comunque anch'io gli ho fatto per ogni sezione, ogni giunto gli ho fatto un bel malloppo di autoagglomerante più nastro isolante. Lo stesso gliel'ho fatto, sai dove? Ha presente quella, l'astuccio della bobina, quello trasparente, no? Sopra, per quanto ci sia una guarnizioncina dentro, io l'ho nastrato bene in modo che da sopra non entrasse nulla di acqua. Insomma, io tutto quello che potevo, anche lo stub di taratura, siccome dove entra lo stub, quello stilettino, già lo sapete cos'è lo stub, dai, adesso non si usa più quel termine. Potrebbe entrare acqua, io ho isolato anche quello, tutto quello che potevo isolare dall'acqua l'ho isolato, pure il PL avvitato bene è isolato, perché se no, se non metti nulla si ossida all'interno degli elementi, no, dove scorrono e poi non conduce più. Mi la Ringo, quella Ringo da 39 euro, era stata isolata male. Aveva quelle fascette brutte, poi io gli avevo messi anche inox, però no? È bastato un millimetro di spazio nell'isolamento messo, è entrata acqua, dentro c'era di tutto, c'era un po' di ruggine in fascetta inox tra virgolette, poi tutto quell'ossido limaccioso, quell'ossido di alluminio, uno schifo era diventato, infatti non c'era stazionaria, non conduceva più bene, e poi si era mollato anche lo stilio dove c'è quel piccolo dischetto di plastica lì, cioè gli danno un goccio di colla, secondo loro tiene, si era mollato anche lì, cioè 39 euro, ma non vale neanche 39 euro, perché tanto dopo un anno sei costretto a cambiarla per il vento e non solo. Infatti è una merda quell'antenna. Ma poi anche l'alluminio si vede che è più scarso, più scrauso, è molto più bella la Energy. Quello era proprio quell'alluminio brutto, alluminio di... Poi l'avevo data a Pomponi, l'avevo usata come pezzi di ricambio, mi pare. Sì, era un'antenna del cavolo. Ah, poi il morsettino che scorre sulla spirale, no? Quello di... mi pare fosse di Ottone. Che scorre sulla spirale, si era ossidato a tal punto era diventato tutt'uno, spirale e questo morsettino scorrevole tutt'uno, proprio cemento, non c'era modo di mollarlo, proprio aggrippato, non c'era disossidante che tenesse. C'è un'antenna proprio, una volta ce l'aveva quella lì, lo sai, che leoncino. Una volta gliel'ho messa per suo, ma devo dire che funziona sempre male. E guarda, un po' tutti l'ho avuta io, perché prezzo basso, tu dici, dai, con i giusti accorgimenti non sarà poi malaccio. Poi questo che abbiano alterato il progetto originale, che gli hanno fatto un bel di bobina in più e non c'è dove mettere il morsetto, allora... Ma poi il cavo che va dalla PL al morsetto... ha diciamo una piega obbligatoria, quindi viene male anche metterlo dall'altra parte della spirale, insomma alla fine tutti accorciavano lo stilo dopo la risuonale, poiché nel manuale non indicavano l'esatta altezza che doveva avere lo stilo o l'antenna in totale, loro dicevano metri 5, scritto a pennarello nella fotocopia che ti davano, è corretto a penna mia era, me lo ricordo benissimo. L'ha avuta Antonio Grode, l'ha avuta e tanti altri, perché all'inizio magari si accontentavano, però poi, per carità, meglio niente. Meglio quella che abbiamo noi a confronto, sì, l'altra a confronto la vedi. E a me in campagna me l'ha crepata una di quelle via 27L, cazzo, mi è durata un bel poco, mi sento stata rasicata. Eia, ho una curiosità, ma la BA27L era molto simile alla nostra Energy? Sempre tre radiali, però domanda. Alla base c'era quella bobina, forse non era a vista, diciamo, ma c'era la bobina internamente, no? Alla base. La gemella è la BA27L, la gemella di quella che abbiamo noi, solo che magari questa sta ancora durando, ho visto. Come mi si rompe, prende, me ne prendo una come quella di Gianni e mi rabbiazzo. Tanto non pesa nulla, gira gira, mi sento la mano, ma così mi recupero i tubi, metto un tubo unico da 6 metri e via, e cerco di attaccarlo alla cabina di su, perché adesso si può entrare, lo dico a quella, entro a casa sua, mi metto le staffe e via, e così è alta 6 metri dopo la cosa, la cabina, tubo unico e via. Gianni, ti ricordi quell'antenna, mi pare l'avessi nominata tu all'epoca, o chi era? Quella della Sigma Eurocom, quella Venom, come si chiama, quella che ha i radialini piccoli tipo X30, che sembra come quella di mio Natalino, però è molto peggio. Non mi ricordo se l'avevi cercata tu su internet. Gianni? Forse si è dovuto allontanare. Va bene, Natalino. Morale della favola è simile alla nostra, però alla base non ha la bobina. Mi pare qualcuno l'abbia aperta. C'ha questi radialini corti, corti e leggermente curvi. Cioè, non c'è piano di massa. E dentro, al posto della bobina, c'è una specie di resistenza. Una resistenza, una cosa come fosse un adattatore di impedenza, uno schifo, rende pochissimo. Perché guarda, chi l'ha provato, ho letto anche l'improperi in inglese di chi l'aveva provata. Eppure non è così complicato fare una bobina alla base, no? E ci mettono una resistenza. È lo stesso quelle Malkot, quelle antenne maledette HF, tipo canna da pesca, cioè uno stilo di alluminio, alla base ci mettono una pacottiglia di resistenze per, non lo so, rendono abbastanza poco, quelle che fanno da 1 a 30, tutto, però poi rende, è come la storia dell'antenna alla camper, minata lì. Ho capito, non sono resistenze, saranno induttanze, sembrano quelle resistenze, adesso la foto purtroppo non ce l'ho sotto mano, posso cercare, cioè quando mai gli metti roba del genere, basta una bobina, vabbè, non è nemmeno un toroide, erano proprio, sembrano resistenze, o conciatori, adesso non voglio fare, qualcuno ha detto che erano resistenze comunque, se trovo una foto te la faccio vedere, un obrobio, guarda. Sì, vabbè. La nostra, anche se è un'antenna così del cavolo, 90 euro costa, comprata in loco, sì. Se la compri da fuori, sì, costa meno, più la spedizione, secondo me almeno 15 euro te la caricano. Poi magari arriva, manca un radiale, manca qualcosa, che ne so, devi rispedire indietro, per carità, preferito prenderla qua. D'altronde, Natale, io l'antenna veicolare l'avevo presa qua, quella mia, la Midland ML145 con la base da 12, l'ho presa la GBC perché volevo toccare con mano, volevo vedere quanto era forte la base. Abbiamo provato su quel metallo del bancone e non riuscivamo a staccarla nemmeno, perché non avevamo avvitato lo stilo, no? Alla base non riuscivamo con le unghie a staccarla. E vabbè. Comunque mi è piaciuta, l'ho vista di persona e l'ho presa. Cioè su internet le foto non rendono giustizia, capito, Natalino? Passa. Ma io ho una BLC 800 in campagna, e quella funzionava bene per la macchina. C'ho la base ancora attaccata, non faccio altro che avvisare e sto andando, volendomelo mettere in macchina. Sì, BLC 800 è sempre andata bene. C'era la 600 che era tipo 1,30 m spiccioli, poi quella 1,65 e poi la 1000. È bellina, io l'avevo messa sulla 500 vecchia di nonno, no, la vera 500. E vedi questa macchina minuscola e poi questo antennone. E pensa, non era neanche dei billunghi, ma era una cosa incredibile a vedersi, con l'attacco a grondina. Certo. No, io l'ho messo sulla capota proprio, mi ha tolto l'antenna dell'autoradio e ci ho messo la base lì. Che poi, naturalmente la macchina di nonno io non gliel'ho chiesto di buttare. Primo perché vabbè non avrebbe voluto lasciare una cosa fissa, e poi comunque quella macchina era tutta una groviera di ruggine, c'era tanti buchi ruggine, era molto molto trascurata come 500. Una volta per poco non piglia fuoco il motore, lo sai, c'è stata una perdita d'olio, credo che abbia toccato un punto caldo, ha cominciato a uscire il fumo, forse anche una fiammella è uscita, quello lo sa mio zio, lo sai. Cavolo, l'olio non c'è altra cosa, se piglia fuoco guai. E infatti quando nonno la voleva rottamare con la macchina, mio zio diceva no, è una bomba, cosa vuoi rottamare? Sì, è una bomba, infatti mi scoppierà sotto. Infatti, chi altri c'è? Gianni, sei rientrato? Oppure Gianfranco ci sei? Luca, tutti morti, Eugenio, tutti spariti. Tutti morti, lo sai, il motore della 500, cioè era un motore di 126, l'ho messo su una 500, gli ho messo il motore e il cambio, perché il cambio non era sincronizzato quello della 500, e gli ho messo quello del 126, motore e cambio, via, e gliel'ho piazzato io a mio fratello. Praticamente il motore della 500 faceva da motorino di avviamento a una Mercedes. Sì, poi camminava quella 500 di un fratello, camminava col motore 126, camminava a voi. Allora, qua l'antivirus mi cosa tutto schermo, schermata rossa, c'è un problema, un accidente mi è venuto. Allora, ecco, sta scadendo la licenza dell'antivirus, bisogna rinnovarla. Vediamo, la licenza non è scaduta, attivando la versione premium con una nuova licenza, il periodo restante della licenza precedente non verrà utilizzato, è possibile usufruire, no? Vabbè, bisogna pagare, bisogna, per la versione premium. Che antivirus è? Kaspersky. Mi ricordo che poi col computer te lo davano in offerta, cioè anziché pagare tipo, non so se fosse 30-40 euro all'anno, il primo anno se lo compravi, se lo prendevi assieme a un computer, 15 euro ti veniva Kaspersky. Però il primo rinnovo bisogna vedere quanto mi chiedono, e comunque meglio averlo, Windows è un po' ambiguo, il più odiato dagli hacker come sistema operativo. Ui ui, anda bene Mela, Gianni ci sei, tu avviato sei senza di nulla. Era un po' stanco, magari si è assopito, beato lui. Avessi fatto lo stesso io, invece forse alle 9:30 devo uscire di nuovo, povero me. E ti dicevo Natalie, di Windows, che ancora non ho installato la macchina virtuale lì, quella di Oracle, si pronuncia, la sandbox, come si chiamava, porca miseria, Dio raccolto. Ma così si chiama, sandbox, no? In modo da lanciare programmi che non sai cosa fanno e vedere se almeno rimane tutto lì e non ti devasta. A parte che l'altro giorno ho scaricato una versione per l'888, no? Per programmare. Una versione presa da Miclor, no? La lancio su quel computer recente, no? E comincia a sfarfallare lo schema a raffica, detto, ma qualche cosa è entrata, invece credo che fosse il programma che non funziona con Windows 10. Si sfarfalla proprio a ripetizione, a raffica, non riesci manco a chiuderlo. Dopo io ho fatto scansione, ecco perché io volevo installare una macchina virtuale e lanciare programmi da lì, così se fanno, cioè, non possono far danno, anche i virus, no, vedi quello che fanno da dentro la macchina virtuale, ma no, non intacca il sistema operativo. C'è anche di Windows, però dicono che sia meglio quella di Oracle, molto meglio. Qualcuno l'ha provata, ha detto che è più fluida quella di Oracle, forse chiede meno risorse anche. La roba di Windows invece è a giga di RAM. Comunque bene o male vedo che di 8 giga il sistema operativo sta sempre a 4 giga, anche meno di 4 giga. Io credo che fosse peggio, anche aprendo programmi non va più di tanto, non si mangia giga più di tanto. Un 8 giga dovrebbero essere sufficienti, no, per applicazioni normali, a meno che non fai AutoCAD, o CAD, come si chiama, quella roba pesante. Perché un ingegnere si sa usare il CAD, o geometra, non devi fare progetti di nulla. No, infatti. Sì, ma una volta facevo un sacco di roba, convertivo in DVX, convertivo da formato a formato, da videocassetta a coso, poi mi si è dimezzato il processore nel computer vecchio, si è dimezzato il processore, era 2 giga e 83, adesso è 1 giga e 41. Sembra che mezzo processore sia morto, infatti non riuscivo più a fare acquisizione da videocassetta con la scheda di Pinnacle, perché l'audio veniva sempre sfasato. Ho detto, ma io non ho cambiato niente in questo computer, come può essere? E un giorno per caso ho visto processore 1,41 giga ed era un Athlon XP 2008 Plus, stiamo parlando del lontano 2004. E il processore credo che sia pure del 2003. È peccato, quella scheda era valida, sì, tutto analogico, risultati dozzinali, però almeno mi salvavo le videocassette. Invece un po' di roba di scuola l'ho persa, di gita l'ho persa, perché col tempo le videocassette si sono rovinate, incollate, ammuffite, di tutto e di più. Quel programma bello che ti toglieva tutte le posizioni del DVD. Tu pensa, loro spendendo milioni di dollari per la protezione dei DVD, no? Era uscita una protezione nuova, no? Chissà quanto avevano speso. E praticamente premendo il tasto maiuscole, mi pare, all'avvio del CD, la protezione veniva già attivata, roba del genere. Cos'era? Aspetta, non me lo ricordo. Il programma si chiamava DVD Fab, mi pare HD Decrypter, una cosa del genere. Quello ha tutti i tipi di protezioni da DVD. Bei tempi, poi il programma non l'hanno più rinnovato, è stato vecchiume. Infatti, c'era un'altra cosa adesso. Sì, magari qualcosa c'è, ma ormai non c'è DVD che li tratta più ormai. Poi se vai a comprare DVD vergini c'hanno marcacce schifose, da, tipo Media World, una marca mai vista, mai sentita, cioè io usavo sempre solo Verbatim e TDK, raramente prendevo Philips, Sony, che potesse andassero pure bene, però io ho fissato Verbatim e TDK. Adesso questi Verbatim e TDK non li trovi più nei negozi di... li devi ordinare a campane da 100 da eBay, da Amazon. Però a me non me ne... cioè, cosa me ne fuzzo dalla campana da 100? Io masterizzo un CD all'anno. Alla fine poi non c'è nessuno che ne vuole più per dividere la spesa, capito? E poi sono tutti appiccicati, cioè io li compravo confezionati con la... come che si chiama? Gevel Box, no? Con la custodia, e invece lì sono tutti pressati uno sull'altro, no? Molti non funzionano, chi li ha provati ha detto che certi non funzionano, poi hanno avuto dubbi anche che fossero non originali, tipo verbatim cinesi, capito? TDK. Basta vedere i commenti degli acquirenti su Amazon. Mia moglie mi sta uccidendo. Che cosa? Moglie, mi sta uccidendo. Ma chi? Moglie. Tua moglie? Natali, io non sento l'inizio della frase, però ricordati, lì c'è un ritardo della portante. Premi prima, dopo mezzo secondo parla. Anche io usi via questo microfono. Vabbè, tutto l'apparato, giustamente. Proprio. Infatti anch'io lo detestavo quel microfono, una cosa così vile, così squallida, non l'ho mai vista, guarda. Nell'altra, No, il cavo è nell'altra custodia. E due cavi, sto. Della lampada stava parlando. Guarda, qua, qua lì. Sì, quella abusiva, lo cazzo delinquente assassino. Ehi, carina quella lampada, sta lì, molto molto carina. Se la trovo uguale potrei anche prenderla, molto psichedelica. Se c'è una te la do, ce ne ho due. Ma fanno gli stessi identici effetti o sono diverse? Quali sono? Fa le luci di Natale, poi fa come l'altro, fa una luce, poi c'è la pila sotto. Ma per caso è quelle che vanno a tempo di musica, se mette musica? Dovrebbe avere un ingresso audio o un microfono per captare la musica. Ma è vero? È vero? È vero, sì. Mi sa che qua ci vuole veramente una supposta di mio duro, sennò qua è tribula. Avete parlato in due, passate Natalino, vai Luca. Ho detto Gianni che fine ha fatto. Non lo so, è sparito, o è al telefono, o a visite, oppure si è assopito. E ho detto io, beato lui, anch'io avrei dovuto rilassarmi un po', invece parlando al baracchino mi agito e mi sale la pressione anche. E mi vengono anche le extrasistole. È vero. È una scena questo Luca, eh. Ma tu conosci quel buon di Natalino? Sì, è un bel cuocomane, e era anche pure pasticciaio me. Pasticciaio eri? Allora sai che entrava Vittorio Giovine e mi diceva abusivo, pasticcino. Bei tempi però, 27, è un mondo che molti non hanno conosciuto. C'è l'altro giorno un vicino ha chiesto se mi stavo mettendo il televisore in macchina. Ha detto, ma perché le antenne verticali si mettono per la TV? Boh. Vabbè, tu dici sì, movimento magari. Però, cioè, vabbè. Sì, un bel di gente non ne ha mai trattato baracchino, nonostante fosse pieno all'epoca, pieno. C'è gente che non sa manco cos'è. Lascia in FM, Luca, anche tu in FM, un attimino. Natalì. Sono qua. Ti ricordi quello dei potenziometri? Dice, lei usa potenziometri, non li può usare. Ti becchiani Gicco. Capito? Potenziometri uguale potenza. Ignorante. Ah, quello va più forte di radio, Natalì. Più forte so. Natalì, ma sto uscendo Marco. Sì, sì, stai uscendo. No, non ci sentiamo, io sento Natalino bene, Luca, mi senti? Sì, ti sento, Natalino. Ho detto, se sto uscendo più forte di radio, boh. Devo dire che in proporzione, Natalino, è migliore in FM che in AM, con quella baracchina, lo sai. Fammela orecchiare meglio, alzo un po' il volume, parla, Natalino. Sì, guarda un po', a vedere come mi ascolti. Luca stava dicendo mi ascoltava più forte. Guarda, gira gira, allora in AM è proprio barattolata. E qui è già migliore, porca miseria. Che vuoi che ti dica? Lo vedo anche da qua che si alza di più lo smitter quando parlo. Allora, da domani tutti in FM, come il resto d'Europa. Mi sembra vero. E poi sai, in FM diciamo entri meno anche nelle casse eventualmente, lo sai, casse citofoni, casse, l'FM è più contenuto, diciamo, più, boh, non trovo le parole. Luca, mi senti? Tu mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento. Sì, anche a me Natalino è sembrato migliore di radio in FM. Luca, chi ti ha chiamato? Ah, boh, ho sentito Luca. Vabbè. Bene, bene. Natalino, io devo chiudere, dai. Mi devo riposare un po' prima di uscire di nuovo, sennò è tripula davvero la cosa, ok? Dai, sentiamo domani o quando capita. Ciao Luca, Natalino, Gianni se l'ascolto, tutti gli ascoltori. Ciao domani. Ciao Marco, mi approfitto per chiudere anch'io. Ciao Luca, alle prossime. E ciao, chi ci fosse in ascolto, correti per me. Eia, ciao a tutti, anch'io chiudo, ciao Natali, ciao Marco. Eia, ciao a tutti, ciao.